TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Da Trieste a Gorizia, la carovana con la fiaccola olimpica è arrivata in piazza Transalpina, luogo simbolo tra l'Italia e la vicina Slovenia, che ormai unisce le due città, Gorizia e Nova Gorica. Si celebra lo sport, ma anche un mondo senza confini, con un messaggio di pace. La torcia poi ripartirà alla volta di Udine. In Friuli Venezia Giulia il mondo del lavoro sta invecchiando. La regione detiene il record per incidenza di over 50 nel settore privato, che sfiora il 40%, la media italiana del 32,7%, i dati di INPS e CGA di Mestre. In vista del giorno della memoria, che ricorre martedì 27, a Staranzano è stata inaugurata la mostra Qui abitava, dai nomi alle storie di vita, sulle vicende di cittadini deportati nei campi di concentramento nazisti. L'iniziativa anticipa la deposizione di 9 pietre d'inciampo la prossima settimana. I 100 anni del settimanale La Vita Cattolica di Udine, esempio di informazione cattolica di spessore, l'anniversario festeggiato stamattina con un convegno sul ruolo oggi dell'informazione religiosa, presente anche il direttore del quotidiano L'Avvenire. Due giganti lontani e diversi, due montagne vive oppure dormienti, due vulcani sono l'Etna e il Fuji, i protagonisti di Brother to Brother, andato in scena solo ieri sera al Verdi di Pordenone. Calcio, la Triestina ribalta in extremis, il risultato è torna a vincere, è successo ieri sera al Rocco nella partita finita per 2-1 contro Lumezzane. Buona la prima per mister Marino, tornato in panchina al posto dell'esonerato Tessera. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Maria Spezia e Antonio Cagliazza. Gorizia ha salutato la fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina 2026. La 48esima tappa è partita da Piazza Municipio. Il primo a portare la fiaccola è stato Simone Bressan da Cormons. 24 i tedofori che hanno attraversato la città, tra loro Luca da Prato, nuotatore paralimpico italiano, atleta della Gorizia Nuoto. Gorizia ha accolto la fiamma olimpica dei giochi invernali Milano Cortina. 24 i tedofori incaricati di portare la torcia, tutti in attesa del proprio turno, con entusiasmo nonostante la pioggia. Il primo portatore, Simone Bressan di Cormons, è partito da Piazza Municipio insieme alla carovana, diretta verso Piazza Vittoria e verso Piazza Transalpina, luogo simbolo tra Italia e Slovenia, che unisce le due città, Gorizia e Nova Gorica, capitali europee della cultura 2025. Una celebrazione dello sport, dunque, ma anche di un mondo senza confini e di un messaggio di pace. Lo evidenzia in questa occasione il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, presente insieme al vice sindaco di Nova Gorica, Tomasz Horvat. Tra i tedofori, Luca da Prato, nuotatore paralimpico italiano e atleta della Gorizia Nuoto, che dopo un incidente nel 2023 ha intrapreso un percorso di rinascita e oggi incarna i valori di resilienza e amore per lo sport. Significativo anche il passaggio della fiamma tra i coniugi Damiana Cescutti e Alessandro Bonfanti, già tedofori nel 2006 in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino. Presente anche Amanda Fama, italo-americana, giocatrice di softball, arrivata dalla California a Los Angeles per la prima volta a Gorizia. Ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo nel 2020 con la squadra italiana. La fiaccola è passata così dal capoluogo isontino per proseguire con diverse tappe intermedie verso Udine, dove si accenderà stasera il braciere olimpico. Da Gorizia, Barbara Ferluga, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo al meteo, il cielo è coperto su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10 gradi, Gorizia e Udine 7 gradi e mezzo, Pordenone 6 gradi e mezzo, in Aramontana, Piancavallo 1 grado e 5 decimi, Treviso e Tolmezzo 1 grado, Forni di Sopra 0, Sappada 1 grado e mezzo sotto lo 0, in quota sul Monte Lussari 1 grado negativo, sul Monte Zoncolan 1 grado e mezzo sotto lo 0, sulla costa a grado 9 gradi e 5 decimi, a Lignano 7. Ed ecco le previsioni: oggi pomeriggio cielo coperto con piogge moderate su pianura e costa, sulla zona montana precipitazioni deboli sulle Alpi e moderate sulle Prealpi, anche abbondanti sulle Prealpi Giulie con quota neve a partire da 600 metri, in rialzo nel corso della giornata. Nei fondovalle localmente sarà possibile la formazione di ghiaccio. Domani, domenica, su pianura e costa cielo nuvoloso con possibili piogge moderate, più probabile più probabili tra la notte e il mattino. Sulla zona montana cielo coperto con precipitazioni deboli sulle Alpi e moderate sulle Prealpi, neve a quote superiori ai 1000 metri circa. È di 42 anni e mezzo l'età media dei lavoratori dipendenti del settore privato in regione, il 35,7% del totale degli occupati, quasi 136.000 persone, ha superato la soglia dei 50 anni. Nessun'altra regione italiana presenta un'incidenza così elevata. La fotografia è stata scattata dall'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccole Imprese CGA di Mestre. In Friuli Venezia Giulia il mondo del lavoro sta invecchiando e i numeri elaborati dall'ufficio studi CGIA su dati IMSS lo confermano. La regione detiene il record per l'incidenza degli over 50 nel settore privato, sono il 35,7%. Seguono Liguria, Basilicata, Toscana, Piemonte. La media italiana si attesta sul 32,7%. In questo contesto i giovani, quando possono scegliere, preferiscono le grandi aziende, considerate più stabili e con maggiori tutele. Il risultato è che la regione si conferma tra quelle con la forza lavoro più anziana d'Italia, con una quota di over 50 tra le più alte del paese. E proprio per quanto riguarda la sola età media delle singole province, quella più alta si registra nella provincia di Pordenone con 42,70, seconda è Udine con 42,60, seguita da Trieste con 42,52 e Gorizia 41,95. La media italiana è di 41,91. Secondo la CGIA di Mestre il dato impatta soprattutto le piccole imprese, i pensionamenti aumentano e i giovani faticano a entrare. Molti lavoratori lasciano il posto di lavoro senza essere sostituiti da nuove assunzioni. Questo significa meno personale disponibile, più difficoltà a coprire ruoli chiave e maggiore incertezza nella gestione quotidiana delle aziende. Senza un adeguato avvicendamento generazionale, molte imprese rischiano di indebolirsi. Cresce così il rischio legato a infortuni e ai problemi di salute. Le difficoltà maggiori nei settori più faticosi, edilizia, trasporti e logistica, dove i giovani sono sempre meno interessati. Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nasce UIL, Federazione Poste e Comunicazioni del Friuli Venezia Giulia. Ieri a Udine i delegati di UIL Poste e di UIL Com hanno dato l'ok alla fusione e al nuovo statuto. UIL Com e UIL Poste del Friuli Venezia Giulia si sono unite per dare vita a una nuova categoria che si chiamerà appunto UIL FPC, ha detto il segretario generale di UIL Poste regionale Ugo Spadaro. È una data importante per la nostra organizzazione, perché diamo il via a un nuovo percorso politico e sindacale che ci vedrà sicuramente in prima linea per la difesa e la tutela dei lavoratori e per ridare dignità ai salari. Ieri pomeriggio a Udine i delegati di UIL Poste e di UIL Com, alla presenza del segretario generale UIL del Friuli Venezia Giulia Matteo Zorn, hanno ufficializzato l'unione delle due categorie e hanno avviato il percorso per il congresso regionale della nuova categoria che si svolgerà il 28 aprile. La cronaca: un uomo di 34 anni, residente fuori regione, è stato arrestato dai carabinieri di Udine per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I militari, durante un controllo stradale nel centro di Pasean di Prato, hanno fermato il suo veicolo e notato un atteggiamento sospetto da parte dell'automobilista. Hanno compiuto un'accurata verifica durante i controlli. È stato notato un rigonfiamento all'altezza della caviglia destra sotto i pantaloni dell'uomo. Si trattava di un sacchetto di plastica contenente circa 200 grammi di cocaina pronta per essere ceduta. Per l'uomo è scattato l'arresto in flagranza di reato ed è stato condotto nel carcere di Udine. I carabinieri della stazione di Aurisina sono riusciti a sventare un tentativo di truffa a danno di una donna di 68 anni intenzionata a eseguire un bonifico bancario di 11.000 euro a favore di un presunto comando dei carabinieri, secondo quanto le era stato richiesto nel corso di telefonate avvenute nei giorni precedenti. Gli interlocutori, con modalità ingannevoli, avevano infatti convinto l'anziana di essere stata vittima di pagamenti che non aveva autorizzato e che per recuperare il denaro fosse necessario disporre un bonifico. Allertati dal personale dell'ufficio postale in cui la donna intendeva eseguire il versamento, i carabinieri sono riusciti a convincerla di essere stata colpita da un raggiro prima che fosse troppo tardi. In occasione del giorno della memoria, in calendario martedì 27 gennaio, a Staranzano saranno poste 9 pietre d'inciampo. Stamattina l'inaugurazione della mostra intitolata «Qui abitava, dai noi alle storie di vita», visitabile fino al 28 febbraio. In allestimento le vicende di donne e uomini di Staranzano che vennero deportati nei campi di concentramento nazisti. Inaugurazione della mostra «Qui abitava» a Staranzano, adiacente alla biblioteca, curata dalla professoressa di storia Chiara Fragiacomo, un lavoro molto intenso di ricostruzione della vita e della storia di 9 persone appunto di Staranzano che sono state deportate. Erano ebrei, professoressa? No, qui a Staranzano abbiamo la deportazione politica, non quella razziale, e poi abbiamo 3 casi di internamento militare, cioè militari italiani internati nei campi concentramento tedesco. Ecco, sono partigiani, 4 partigiani, e poi 2 persone che rientrano in politici pur non essendo politici, perché qui nella nostra zona, nel litorale adriatico, ci fu una attività di repressione intensa da parte sia dell'esercito, la Wehrmacht, che aveva ordini anche di, diciamo così, perseguire i civili sospettati di sostenere la resistenza, e anche delle SS. Quindi la nostra zona, che era sotto la direzione tedesca direttamente, quindi non c'era la Repubblica Sociale, conosce appunto una intensa, diremo così, persecuzione. Quindi molti civili vengono arrestati e rientrano nella categoria di politici. Come destinazione anche, vanno in quei lager dove per lo più andavano i politici, cioè Dachau, Buchenwald, Mauthausen. Ecco, i nostri poveri 4 partigiani finiscono poi nei sottocampi di questi appunto grandi campi, dove le condizioni erano durissime, no? E c'è anche una donna fra queste 9 deportati. Una donna, appunto, una donna che lavorava alla mensa del cantiere di Monfalcone, che viene arrestata addirittura sul posto di lavoro, almeno così diciamo è il ricordo dei familiari. Staranzano, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Custodire volti e voci umane. Penso che anche nella comunicazione dobbiamo sempre custodire l'umanità. Lo ha detto oggi il vescovo di Trieste, Monsignor Enrico Trevisi, in occasione della celebrazione della memoria liturgica di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti e degli operatori dei media. Talvolta, ha detto Trevisi, ci sono parole così gridate, non soltanto attraverso i media ma anche attraverso i social, che ci portano a dire come in tutto il mondo serve presidiare l'umanità, e vediamo che ieri come oggi il mondo è un campo di battaglia. Dobbiamo quindi custodire l'umanità, ha ribadito il vescovo, e cogliere anche il lamento, la sofferenza, la preghiera che sale da tante persone. Auspico che anche i mezzi di comunicazione diano spazio a questo e non soltanto ad una polarizzazione che porta ad uno scontro continuo. La celebrazione si è svolta nella cappella della Santissima Trinità presso il Vescovado di Trieste. Il settimanale La Vita Cattolica di Udine compie un secolo. Per festeggiare la pubblicazione, un convegno ha approfondito le sfide attuali per l'informazione cattolica. Vi ha partecipato anche Marco Girardo, direttore del quotidiano Avvenire. Compie 100 anni La Vita Cattolica, il settimanale dell'Arcidiocesi di Udine, che insieme a Radio Spazio dà lavoro a 20 di persone. Una pubblicazione che nel tempo ha fatto da pungolo, spiega il direttore Don Daniele Antonello. La Vita Cattolica ha raccontato il Friuli e i suoi cambiamenti nel corso di un secolo. Si è ragionato di passato, presente e futuro nel convegno dedicato proprio a questo centenario, distribuite a partecipanti la prima copia del settimanale datata 10 gennaio 1926. In prima pagina si parlava della morte della regina Margherita di Savoia. Spazio poi alle riflessioni del mondo cattolico e la cronaca della provincia e della città. Dalla dittatura fascista alla Repubblica, passando per la guerra, la Vita Cattolica ha avuto un ruolo di rilievo anche per tenere la comunità unita e alto il morale durante il duro periodo del terremoto mezzo secolo fa. Tra gli interventi più attesi del convegno, quello di Marco Girardo, il direttore del quotidiano dei Vescovi Italiani Avvenire, il secondo più diffuso in Italia tra i cartacei. Girardo, originario di Ronchi dei Legionari, ha parlato per l'informazione cattolica della necessità di un giornalismo gentile, non urlato, in contrapposizione ai toni alti, esasperati dai meccanismi dei social da cui siamo circondati. Udine, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Si rafforza e si estende fino al Giappone il processo di internazionalizzazione dell'alta formazione dell'Università di Udine, l'Ateneo Friulano e l'Istituto di Tecnologia di Tokyo hanno istituito un doppio titolo di laurea magistrale congiunto per Udine in Ingegneria Industriale per la Protezione Sostenibile, corso del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e Architettura, per Kyoto in Meccanofisica e Meccanodesign. L'accordo è stato sancito dall'incontro a Palazzo Antonini tra le delegazioni delle due università. Dal prossimo anno accademico 2026-2027, due studenti selezionati da ciascun ateneo potranno trascorrere 6 mesi di studio nell'università partner. Al termine del percorso biennale, il titolo di laurea finale sarà valido sia in Italia sia in Giappone. La pagina degli spettacoli e della cultura si chiude oggi, la 37esima edizione del Trieste Film Festival, la cerimonia di premiazione in programma al Politeama Rossetti alle 20, consegnerà il riconoscimento Stella dell'Est alla regista ungherese Ildikó Ényedi, di cui sarà proiettato il film Silent Friend, l'amico silenzioso, già premiato a Venezia, e in cui si raccontano 3 storie tra loro collegate da un albero di Ginkgo Biloba. La premiazione sarà anticipata dalla masterclass della regista in conversazione con la direttrice artistica del festival, Nicoletta Romeo, sempre al Rossetti alle 17. Due vulcani protagonisti in scena nello spettacolo Brother to Brother, cioè da fratello a fratello. I due giganti, mastodontici, diversi e allo stesso tempo simili, sono l'Etna e il Fuji. La rappresentazione ieri sera al Teatro Verdi di Pordenone. Due vulcani, due giganti della Terra, apparentemente distanti ma uniti da una stessa forza originaria. È da questo parallelismo che nasce Brother to Brother, un dialogo profondo tra energie opposte e complementari, tra silenzio e fragore, immobilità e slancio, caos e armonia. Sono l'Etna e il Fuji i protagonisti della nuova produzione della compagnia Zappala Danza, in collaborazione con i percussionisti giapponesi Munedaiko, andato in scena al Teatro Verdi di Pordenone in esclusiva regionale. Un teatro sold out in ogni ordine di posti ha accolto uno spettacolo energetico e a tratti ammantato di momenti quasi sacrali. Da una parte il profilo possente dell'Etna, dall'altra lo slancio agile e fiero del Fuji. I due opposti trovano armonia e pace nello spettacolo in cui coreografia e regia sono firmate da Roberto Zappalà, che mette il corpo al centro di un'esperienza collettiva quasi rituale. I danzatori diventano materia viva, attraversata da un respiro comune che li lega tra loro e con la musica, in un fluire incessante che richiama le dinamiche profonde della natura. Fondamentale è il ruolo dei Munedaiko, maestri del tamburo tradizionale giapponese, il cui suono ancestrale scandisce il tempo della scena, dialogando con il paesaggio sonoro originale di Giovanni Seminerio. In questo incontro danza e musica condividono la stessa tensione, la ricerca dell'equilibrio, della fratellanza, di una possibile armonia tra forze solo in apparenza inconciliabili, in un viaggio che attraversa culture lontane per restituire al pubblico un'immagine universale dell'umanità, radicata nella terra e protesa verso il cielo. Pordenone, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. L'attore Filippo Timi è protagonista e regista dello spettacolo Amleto al quadrato, rilettura personale del testo shakespeariano che sul palco diventa un canovaccio aperto. In scena la tragedia viene ribaltata in commedia, trasformando la follia in chiave di lettura del presente, mentre Amleto è un principe stanco, annoiato, che non ha più voglia di interpretare la monotona storia familiare che gli è stata assegnata, né di amare Ofelia né di aderire al destino che lo richiama in vano. Tutto questo a Udine, al Teatro Palamostre, alle 20.30. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio. La Triestina è tornata alla vittoria allo Stadio Rocco. Ieri sera è finita per 2-1 la partita degli Alabardati contro il Lumezzane. Il ritorno di Geppino Marino sulla panchina della Triestina porta dopo 23 giornate l'Unione sopra quota 0. Dopo le 4 sconfitte consecutive e l'esonero di Tesser, arriva una vittoria in rimonta a Rocco contro Lumezzane, squadra di metà classifica. 2-1 nonostante la complicata situazione societaria e il centrocampo, che bene aveva fatto nel girone d'andata, completamente smantellato con la cessione di Gündüz all'Under 23 della Juventus. Gli alabardati ci provano all'ottavo con Anzolin da fuori area, ma la botta, non troppo convinta, viene respinta da Drago. Dopo un tentativo di Johnson ci prova Lumezzano al 18° con Ghillani, ma il tiro è largo. Sugli sviluppi di un corner Silvestri è impreciso e sul finale di tempo è bravo Matošević a respingere con i piedi la conclusione all'incrociare di Iori. Nella ripresa la Triestina continua a giocare bene come nelle ultime partite del resto, ma come al solito non concretizza. Kljajić di testa non fa male a Drago, che è bravo qualche minuto dopo a disinnescare Voza. Il gol arriva, ma per gli ospiti. Al 27° contropiede sulla sinistra cross di Pagliari, che attraversa tutta l'area e difesa che non copre dovere su Ferro, che insacca. Gli alabardati potrebbero mollare, ma non lo fanno. Jonsson lascia sul posto un difensore da fuori area con un tiro a girare, pareggia i conti meno di 4 minuti più tardi. L'islandese Tuttofare è una delle sorprese più belle di questa stagione disgraziata. Ci prova addirittura di destro dalla stessa posizione, ma senza fortuna. Al 90° l'episodio chiave, D'Urso viene atterrato in area e dopo la revisione con il VAR viene assegnato il calcio di rigore. Sul dischetto va Kljajić, che sceglie la soluzione di potenza, neppure troppo angolata. Il portiere del Lumezzane però sceglie di rimanere fermo e così la Triestina torna alla vittoria dopo oltre un mese. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Basket Serie A riprende il cammino di campionato del Pallacanestro Trieste dopo il turno di riposo osservato la scorsa settimana. I biancorossi affronteranno in casa la Dinamo Sassari in uno dei due anticipi della 17esima giornata. L'inizio della partita è alle 20. Sci alpino, ottavo tempo per l'Ara della Mea nella prima manche dello slalom gigante che si disputa nella Repubblica Ceca. La Tarvisiana, che per la prima volta partita tra le prime 15 atlete, ha fermato il cronometro a 1 minuto 13 secondi e 53 centesimi, a oltre un secondo e mezzo dalla svedese la Sara Hector, che guida la classifica provvisoria. Della Mele capofila delle italiane, anche se è stata penalizzata da una partenza poco felice, migliorando la sua prestazione nel corso della discesa. La seconda manche comincerà alle 13:30 e si potrà seguire su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. E ora uno sguardo alle nostre rubriche. Partiamo da Est-Ovest, la trasmissione che ogni domenica indaga le realtà politiche, sociali, economiche e culturali dell'Europa centro-orientale. Cosa c'è nella trasmissione di domani? In Grecia, Salonicco ricorda i suoi 50.000 concittadini ebrei sterminati dai nazisti a Auschwitz. A Budapest, la contraddittoria memoria dello sterminio degli ebrei si specchia in una battaglia di monumenti. In Repubblica Ceca, chiusa la miniera di carbone di Stonava, terminata un'epoca industriale di 3 secoli. Doppelganger, rapper idolo degli adolescenti che spopola su TikTok, divide la propria identità tra Roma e Sarajevo. Attivista, film del regista lituano Roman Zabarauskas, indaga la violenza omofoba dei gruppi neonazisti. Tutto questo a Est-Ovest, domenica alle 11:05 su Rai 3. Domani in radio su questa frequenza, dopo il giornale radio del mattino, andrà in onda Vita nei Campi. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della redazione, in onda la domenica alle 8:50 su Radio 1 Rai. Domani parte dal primo bilancio di sostenibilità del consorzio del Montasio DOP, tra legame con il territorio e benefici per la salute. A seguire tornano le uova nel pollaio, Angelo Floramo entra nell'odore e nel tepore del Gialinar friulano, guida i contenitori per seminare le piantine da trapiantare nell'orto di casa e ancora alla scoperta delle birre del piccolo Belgio, patrimonio UNESCO da oltre 1500 varietà. Il Figadel del Friuli occidentale, sapienza tradizionale nella conservazione del maiale. L'eleganza senza tempo della peonia, distinguere tra erbacee e arbustive per ottenere splendide fioriture. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, previsioni meteo e il proverbio friulano. Udine, Rita Micoli, TGR Friuli Venezia Giulia. E sempre domani su Rai 3 alle 12:25 andrà in onda la rubrica della TGR dedicata alla montagna Alta Quota. Dalle Alpi Carniche al Molise, passando per il Trentino Alto Adige, la montagna si racconta come luogo di rinascita, cura e conservazione. Questo è il filo conduttore della puntata di domani, condotta da Ester Maria Lorido, e di Alta Quota, appunto, la rubrica in onda domenica 25 gennaio, lo ripetiamo, alle 12:25 su Rai 3. Rai 3. Il viaggio parte dal Friuli Venezia Giulia, Prato Carnico, dove due fratelli hanno deciso di ridare vita ad un antico strumento musicale, il clavicembalo, una storia di artigianato, memoria e legni locali tramandati di generazione in generazione, che ha portato diverse creazioni fino al Quirinale. Dall'arte alla sicurezza, in Alto Adige, oltre i 2000 metri, le telecamere di alta quota seguono le guide alpine impegnate nel soccorso in valanga per raccontare come il tempo e la preparazione possano fare la differenza tra la vita e la morte. Poco più a sud, in Trentino, tra le foreste di Primiero devastate dalla tempesta Vaia, prende forma una nuova leggenda, la rinascita di una guana, ninfa dei boschi e dei torrenti alpini, simbolo di resilienza e immaginario collettivo. Si scende poi in Alto Molise, dove la montagna diventa una vera e propria cura, una fattoria didattica dimostra come l'alta quota possa aiutare il benessere del corpo e della mente, trasformandosi in strumento terapeutico. Spazio poi anche all'attualità sportiva, con uno sguardo ai giochi olimpici invernali ormai alle porte. Ora sono le 12:54 minuti e 55 secondi. L'assistenza tecnica è stata assicurata a questa edizione da Marco Ferrito e da Tommaso Vinoni. Ha collaborato in redazione Isabella Parutto. La nostra informazione torna in TV col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e alla radio col GR delle 14:30 all'orario del sabato su questa frequenza. Da Maria Spezia e da Antonio Cajazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.